luoghi d'arte. Un saluto da Marco Carminati, sono a Milano davanti a Palazzo Marino, sono in fila per andare a vedere anch'io un capolavoro straordinario, il consueto quadro che il Comune di Milano offre durante il periodo di Natale gratuitamente alla città, e quest'anno l'ospite d'onore è una bellissima pala d'altare di Pietro Paolo Rubens, l'Adorazione dei Pastori, che viene da Fermo, dalle Marche. Questo quadro ha una storia davvero singolare, è il frutto di una raccomandazione. Capitò che nel 1608 questo giovane pittore fiammingo era a Roma e stava lavorando per il potente ordine degli oratoriani, quelli di San Filippo Neri, e stava realizzando nella chiesa nuova di Roma un capolavoro straordinario per quest'ordine. E il priore di questa famiglia religiosa scrisse a un suo confratello che si chiamava Francesco Francellucci, che era il priore di Fermo, e raccomandò questo pittore fiammingo alla chiesa di Fermo, tant'è vero che il nostro Rubens si trovò a dover lavorare su due fronti e realizzò proprio per la chiesa degli oratoriani di Fermo, la chiesa di San Filippo, questa pala che noi adesso vediamo a Palazzo Marino. Fu un lavoro particolarmente intenso, tra l'altro è una pala di carattere caravaggesco, cioè c'è un grandissimo chiaroscuro e il bambino, il divino bambino, sembra una lampadina, fa lui luce a tutta la scena. Caravaggio non avrebbe apprezzato molto questo tipo di pittura, ma la storia è divertente perché il pittore realizzò questo quadro e dovette spedirlo fino a Fermo e fu molto preoccupato, lo sappiamo dagli scritti, perché nel 1963 negli archivi di Fermo sono emersi tutti i documenti sulla storia del quadro. Era molto preoccupato che arrivasse in buone condizioni da Roma, trainato con su un carro, trainato dai muli fino a Fermo. Fu un viaggio abbastanza complicato e quando arrivò raccomandò che se si fosse attaccata della carta protettiva alla tela di toglierla con un po' di acqua calda, quindi lo stesso Rubens diede delle indicazioni su come trattare il dipinto. Questo quadro venne collocato in chiesa e piano piano ci si dimenticò della sua esistenza. Nel 1927 il grandissimo Roberto Longhi lo riscoprì e lo fece conoscere con uno studio memorabile a tutta l'Italia e a tutto il mondo. Ho deciso di indire un giubileo straordinario. Radio 24 vive l'inizio del giubileo in diretta. L'8 dicembre non perdere il nostro speciale sull'inizio del giubileo straordinario. Con i nostri inviati dal Vaticano, le voci degli organizzatori, le opinioni dei cittadini, gli approfondimenti sugli sviluppi del sinodo e dello scandalo VatiLeaks. L'8 dicembre segui le storie e le voci del giubileo insieme a noi alle 17 su Radio 24. Sarà un anno santo della misericordia.